voglio fare sesso, voglio fare sesso, voglio farlo adesso, voglio farlo adesso. Io ti sento addosso, io ti sento addosso. Se nell'aria c'è qualche cosa. Sesso dentro questi pantaloni, il mio sesso dentro queste mie canzoni, il mio sesso mi fa dire che ti amo, il mio sesso quando cresce sospiriamo, il mio sesso cerca sempre l'altro sesso, il mio sesso non mi ha reso mai depresso, no! Il mio sesso sei ansioso ed impaziente, il mio sesso sale quotidianamente, forte più che mai, nei pensieri miei, il mio sesso e la sua storia penetrante, il mio sesso qualche volta un po' esigente, il mio sesso cultura generale, questo sesso non è bene neanche male. Voglio fare sesso, voglio farlo adesso, io ti sento addosso, se nell'aria c'è qualche cosa di te. I suoi modi per giocare, il mio sesso che mi dice dove andare, il mio sesso senza troppe inibizioni, fa vedere la sua forma nei calzoni, è il comando della mente, non ci posso fare niente, è una cosa sconvolgente. Qualche cosa di te, d'emozioni, il mio sesso quante dolci sensazioni, il mio sesso molto spesso mi domanda, senti uomo chi di noi è chi comanda, è un comando della mente.